Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, martedì 4 novembre del 2014. Parliamo di teatro nuovamente, un nuovo spazio si è aperto a Roma. Ne parliamo con Laura Monaco. Ci sei, Laura? Sì, sono qui, ciao a tutti. Ciao, allora raccontaci un po' di questo spazio, zona Viale Marconi, Laura si chiama, L'apostrofo sì. Aura. Sì, è un nuovo spazio, abbiamo inaugurato da pochissimo, il 30 settembre, siamo in piena stagione teatrale, siamo a Viale Marconi, di fronte alla Feltrinelli, in un posto colorato e vivo. Che dirvi, la stagione è ricca di tantissimi spettacoli, adesso abbiamo avuto spettacoli comici, un musical, ora parte una tragedia tratta da Arthur Miller e poi una commedia che si chiama Singolari Coincidenze, quindi venite a trovarci. Senti, ecco, parliamo proprio di questo spettacolo che sta per andare in scena, che ti vede anche coinvolta, sì. Dici un po' qualcosa. Allora, tratta la tematica del dramma del nazismo contro gli ebrei, è tratto appunto da Arthur Miller, Vetri Rotti, e una rivisitazione, si chiama La lunga notte dei cristalli. In scena abbiamo Giorgio Carosi ed Eleonora Pariante, che insomma sono due nomi teatrali importanti. E la messa in scena è molto semplice, divertente e particolare, perché si intrecciano le situazioni di vari ambienti, quindi in scena ci sono più ambienti e riporta gli anni 40, quindi ambientata in una Brooklyn degli anni 40, per cui veniteci a trovare. Senti, ci lasci anche dei riferimenti internet per saperne di più sulla vostra attività? Sì, allora abbiamo il sito del teatro, che è www.regisassociazioneculturale.it, e abbiamo la pagina Facebook Teatro Laura, siamo su Twitter, tra poco su LinkedIn, su Google Plus, quindi a voglia, ci trovate ovunque. Bene, va bene, allora non c'è che da venirvi a trovare. Sì, vi aspettiamo. Ciao Laura, a presto. Grazie, buona giornata. Ciao, ciao.